Italia in controluce. Buongiorno, sono le 13.35 minuti e 56 secondi e Italia in controluce, il reportage sulla cronaca italiana di Radio 24. In apertura voglio ringraziare Bruno Gambarotta, giornalista e scrittore, per il bellissimo pezzo che compare oggi sulla stampa, che riguarda proprio questo programma, Italia controluce, il reportage, andare in giro, consumare le suole delle scarpe, che è questo il lavoro di noi cronisti. Questa è la storia di un'associazione che ha fatto della lotta alle mafie una ragione di vita, di impegno civile, di memoria. Sì, di memoria, perché sabato 20 marzo decine di migliaia di persone sfileranno a Milano per ricordare le vittime della mafia e per affermare che combattere le cosche è possibile in Sicilia come in Lombardia, racconto di Stefano Totoro. Per qualcuno, come Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, ricordare un familiare ucciso è un impegno, anche se straziante. Generalmente chi perde una persona cara cerca col tempo, non dico di dimenticare, ma fa di fare affievolire la memoria forte, la memoria acuta, diciamo, del dolore. Io invece, ricordando Giovanni ogni giorno nelle scuole, vedendo il filmato con lui vivo, non le posso nascondere, vede, già al pensarlo mi vengono lacrime agli occhi. Come Maria Falcone, i familiari delle vittime di mafia sono centinaia in Italia e nel mondo. Magistrati, giornalisti, sindacalisti, poliziotti, vigili del fuoco, sacerdoti, imprenditori, politici e amministratori locali. Sotto la bandiera della memoria, più di 500 familiari sfileranno a Milano il 20 marzo dal palco in Piazza Duomo. Saranno letti 900 nomi delle vittime innocenti della mafia. La giornata è promossa dall'Associazione Libera, che quest'anno ha scelto Milano. Non a caso, il fondatore è Don Luigi Ciotti. Beh, la Lombardia è certamente una situazione storica che si accompagna nel tempo, dove le mafie sono state presenti. Questa è una città di grandi valori, di grandi contenuti, qui c'è un potere economico, finanziario, non è un caso che 639 beni confiscati sono in Lombardia, 116 comuni coinvolti, qui c'è un grande lavoro della magistratura e delle forze di polizia. Non posso dimenticare che oggi il capo della squadra mobile è il figlio di Boris Giuliano, ucciso da Cosa Nostra. E oggi si affaccia questa mafia più silenziosa, questa mafia che fa meno chiasso e meno rumore apparentemente, ma che fa i suoi affari. È una mafia imprenditoriale, finanziaria, immobiliare, che penetra nelle fessure del sistema. Allora bisogna difenderci e fare la propria parte. Ricordare, sconfiggere e costruire, parole che rimbombano da anni nella vita e nelle piazze riempite dai familiari delle vittime. Storie diverse, lutti diversi, un'unica missione. Franco Latorre è il figlio di Pio Latorre, sindacalista ucciso a Palermo nel 1982. In piazza, sabato, ci sarà anche lui. Lo ha intervistato Maria Chiara Grandis. Si accoppiano quelli che sono i sentimenti legati alla perdita di un familiare a... appunto all'aspetto di condivisione e socializzazione di questo genere di lutti, che sono legati alle azioni della criminalità organizzata e quindi alla voglia di impegnarsi per testimoniare la possibilità di sconfiggere anche attraverso la memoria, che attraverso questa azione culturale e diffusione dei valori antimafia, quello che è l'azione della criminalità organizzata. La giornata di sabato arriva quest'anno a pochi giorni da un arresto eccellente, quello di Salvatore Messina Denaro, fratello del super latitante Matteo. Don Luigi Ciotti si complimenta con le forze dell'ordine, elogia l'impegno dello Stato e ricorda. Paolo Borsellino profeticamente disse di non farci delle illusioni, perniciose illusioni, che non cali la tensione, che non diventi solo fare l'esuberanza della positività di un impegno, di un lavoro che è stato fatto, che viene fatto, a cui bisogna prestare riconoscenza, attenzione, ma attenzione che le mafie hanno una capacità di cambiamento e trasformazione impressionante. L'azione di contrasto non può essere solo giudiziaria e repressiva, fa eco Franco Latorre. Richiede un impegno a tutto campo, un impegno di carattere sociale, culturale e certo un'attenzione da parte dello Stato, che deve essere in grado di predisporre quegli strumenti e quei mezzi che riescono poi a contrastare efficacemente il fenomeno. Purtroppo c'è anche chi non ricorda o chi non vuole ricordare, chi dimentica. Maria Falcone. Vuole dimenticare chi ha interesse a far sì che invece non ci sia la legalità nel nostro paese, sicuramente. Ci sono gli indifferenti per natura, i poco interessati a quello che è il sociale. Io sto bene per i fatti miei e non mi interessa niente del resto. Poi ci sono quelli che invece hanno un interesse particolare, soprattutto nelle nostre regioni del sud, dove criminalità non è soltanto la mano armata, ma dove c'è un insieme di commistioni varie fra il potere amministrativo, finanziario, eccetera. Quelli hanno tutto l'interesse a dire che mafia, che la mafia non è poi una cosa così cattiva, ma è anzi un qualche cosa che dà posti di lavoro. Da Don Ciotti un invito ai partiti: nessuno porti bandiere e nessuno strumentalizzi questa giornata. Italia in controluce. Da Milano muoviamo il nostro obiettivo verso il nord-est e torniamo lungo le strade del miracolo economico per una storia importante, per una storia drammatica e nascosta, ambientata nelle vie e sulle strade di Padova. Il racconto di Andrea Saule. 18 suicidi per motivi legati a problemi economici in un anno e mezzo nel solo Veneto. La crisi ha colpito fortissimo il tessuto economico del nord-est, fatto di piccole imprese, principalmente artigiane, a conduzione familiare. Nell'ultimo mese ben 4 imprenditori del Padovano hanno deciso di smettere di lottare con fisco, banche e scarsa competitività. Convinti di salvare almeno l'onore, l'hanno fatta finita. Ci spiega l'origine di questo disagio la collega della redazione padovana del Sole 24 Ore, Cati Mandurino. La crisi ha cambiato profondamente il modello economico del Veneto e del Nord-Est per due motivi principalmente. Prima di tutto perché l'economia di queste regioni è sempre stata manifatturiera e questo è il settore più colpito dalla crisi. Poi perché il tessuto imprenditoriale del territorio è fatto di piccole e medie imprese, di artigiani, di piccoli imprenditori edili. Pesa il sottodimensionamento e la sottocapitalizzazione. Il concetto di aggregazione è ancora in stato abbastanza embrionale, quindi la crisi che colpisce un'azienda piccola perché dalle banche non ha lo stesso credito di prima o perché avanza crediti dalla pubblica amministrazione ne decreta la fine. Un'impresa grande affronta con più mezzi lo stallo, una piccola è più a rischio. E la dimensione piccola e il grande numero di aziende fa sì che ci siano maggiori casi di fallimenti o chiusure aziendali o addirittura, come vediamo in questi giorni, casi di suicidi da parte di titolari d'impresa. Era il racconto di Italia in controluce, la cronaca secondo Radio 24, l'archivio delle puntate lo trovate interamente sul nostro sito radio24.it. Due sono le forme di comunicazione: la bacheca di Radio 24 Italia in controluce su Facebook e la mail controluce@radio24.it. A domani dunque alle 6.30.